Senti ragazza, ascoltami bene, ormai ho bisogno di te, voglio l'amore che vuoi dare. Ciao, come stai? Io bene, tu che fai? Vuoi andare al cinema? O preferisci una cena? Ti porterò ovunque, basta che resti con me. Ciao, come stai? Io bene, tu che hai? Sei triste, piangerai? Fammi un sorriso, dai! Adesso sono qui e resterò con te fino a quanto mi dirai. Tutto va meglio vicino a te. Ti amo, ti amo sempre di più. E mi ami, spero anche tu. Ho sempre voglia di guardarti, ho sempre voglia di parlarti. Ormai ho bisogno di te, di te. Ormai ho bisogno di te, di te. Voglio l'amore che puoi dare, sarà la fame che mi dai. Impossibile non vederti mai. Ciao, che racconti, che dolce, tu mi piaci. Oggi che facciamo? Ti amo, dammi la tua mano. Ti porterò ovunque, basta che sto con te. Sempre di ciao, come sei bella, con il sole che t'affianca. Non c'è neanche un minuto che non ti penso. Mi ami. Tu sei l'aria che mi fa respirare. Tu sei il cuore che mi fa amare. Ti amo, ti amo, che racconti, che dolce, tu mi piaci. Mi ami, spero anche tu. Ho sempre voglia di guardarti, ho sempre voglia di parlarti. Ormai ho bisogno di te, di te. Ormai ho bisogno di te, di te. Voglio l'amore che puoi dare, sarà la fame che mi dai. Impossibile non vederti mai. Come sei bella, con il sole che t'affianca. Mi ami, spero anche tu. Ho sempre voglia di guardarti, ho sempre voglia di parlarti. Ormai ho bisogno di te, di te. Ormai ho bisogno di te, di te. Voglio l'amore che puoi dare, sarà la fame che mi dai. Impossibile non vederti mai. Tu sei l'aria che mi fa respirare. Tu sei il cuore che mi fa amare sempre di più.